Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per la vostra numerosa partecipazione. Io sono Jacopo del Caso S, dirò adesso due parole di introduzione a questa iniziativa. Innanzitutto parto col presentare un po' il nostro progetto. Noi siamo al Caso S, un gruppo di giovani studenti e studentesse di storia che da un paio d'anni ha iniziato a fare un'attività qui a Bologna come collettivo, fra virgolette, come progetto di giovani aspiranti storici e storiche. Nel senso che, nata come esperienza nell'ambito dell'università, questo progetto aveva un po' l'ambizione di iniziare di fare in modo che noi iniziassimo a prendere confidenza con quello che dovrebbe essere il nostro mestiere, fra molte virgolette, un domani fuori dall'università, già in un periodo di formazione, recuperando anche degli spazi di discussione, di produzione di contenuti che dentro l'università non trovavano sempre posto. La nostra attività si sviluppa in diversi ambiti. L'iniziativa che stiamo facendo oggi qua all'interno dell'università, un'altra delle iniziative che abbiamo fatto e che abbiamo in cantiere di fare nell'arco di quest'anno, ne è un esempio. Un altro è l'attività che abbiamo con il nostro sito www.casos.org, che è una piattaforma di discussione, un sito dove ci sono articoli, dove c'è anche lo spazio per discuterli. Vi è un programma radio, Balloon, su Radio Città Fujiko e altre cose. L'iniziativa di oggi è una parte di un ciclo generale di piccole iniziative che vorremmo fare e che stiamo facendo all'interno dell'università. Cioè, iniziamo a portare la discussione anche all'interno degli spazi dell'Accademia, riprendendoci degli spazi che tutto sommato ci appartengono. La giornata di oggi, come diceva in maniera abbastanza chiara il testo del volantino, è dedicata alla tematica della violenza politica, partendo da un'analisi di Frantz Fanon e dell'influenza del pensatore caraibico sui movimenti afroamericani. Perché questa iniziativa? La tematica della violenza politica è una tematica che è molto forte, va da sé come discussione. È molto forte, spesso è stata trascurata, in particolare nell'analisi del pensiero di Frantz Fanon, questo aspetto negli ultimi anni in cui abbiamo assistito a una rinascita degli studi su Fanon, grazie ai subalterno studies, gli studi postcoloniali, è stata una ripresa del suo pensiero, ma l'analisi del suo pensiero politico, la sua analisi sul concetto di rivoluzione, sul concetto di violenza è spesso stata trascurata. Perché? Gli interrogativi, cioè le risposte a questa domanda sono diverse, ne parleremo anche con i nostri due relatori di oggi, che arrivo subito a presentare, Lorenzo Ravano e Elisa Cecchinato. Ravano, scusa, ci ho pensato fino adesso a come dirlo in una maniera giusta e ho sbagliato. E, Lorenzo si è appena laureato con una tesi di studio, una tesi di dottrine politiche sul pensiero di Frantz Fanon, mentre Elisa si è laureato qua all'Università di Bologna. Elisa studia in generale i movimenti afroamericani, la cultura dei movimenti afroamericani, ci dirà meglio lei poi, e la studi che ha condotto in Francia, sui quali costruirà anche la sua tesi di dottorato, che ha vinto sempre in Francia, che prevederà anche un periodo di studio negli Stati Uniti. L'ultime due cose che volevo dire era proprio un piccolo ritorno su questo concetto della violenza politica. La violenza politica sta entrando, o comunque sta provando a entrare, come anche nel dibattito storiografico. Si inizia a parlare di violenza politica come categoria storiografica con la quale analizzare la storia, e più in particolare anche come analizzare il Novecento. Quest'estate al simposio della rivista storica Zapruder un panel è stato dedicato proprio a questa discussione, e questo sarà anche il soggetto di uno dei numeri che verranno pubblicati. Perché la violenza politica sembra essere un concetto caratterizzante del Novecento, che lo ha caratterizzato sotto vari aspetti. La storia italiana è stata conosciuta una forte esplosione della violenza politica, in particolare gli anni 70, per quello che viene detto, per come se ne parla a livello di dibattito storiografico e soprattutto a livello di dibattito pubblico. ma è un concetto che ha un respiro molto più vasto, in particolare ha un vasto respiro a livello internazionale. Nel grosso limite dei nostri studi è quello di concentrarsi sulla dimensione europea, sulla dimensione occidentale. Non esiste solo l'Europa, non esiste solo l'Occidente, e quello che è emerso soprattutto nella seconda metà del Novecento nel resto del mondo ne è un chiaro segno. In particolare arriviamo a Frantz Fanon. Frantz Fanon si ricollega come area di riferimento molto a quello che è stato definito il terzo mondo, anche se poi, come vedremo, ha un legame forte anche con la dimensione europea, con la cultura europea, e questo aspetto è un elemento che va tenuto in considerazione soprattutto perché la categoria degli oppressi, la categoria che in una dinamica rivoluzionaria possono esercitare un certo tipo di violenza politica, non sono solo le classi subalterne dell'Occidente, le classi popolari, la working class, quello che chiamiamo come ci pare, ma possono avere anche una dimensione, un'interpretazione più a vasto respiro. Cioè, parlare oggi di Frantz Fanon può avere diversi sensi. È stato ripreso nell'ambito di studi postcoloniali, in particolare ha visto una rifioritura in un paese anche come la Francia, in cui forte è la dimensione del conflitto postcoloniale, fra virgolette, cioè la violenza che è esplosa nell'ambito delle periferie francesi nel 2005 ci racconta qualcosa di un conflitto a livello coloniale, di una memoria che non è stata risolta, o comunque questa è stata l'interpretazione che buona parte del dibattito pubblico, del dibattito intellettuale ha voluto dare di questi fenomeni. Quindi Fanon è tornato con molta forza, però come dicevo prima, la sua idea di rivoluzione, la sua idea di violenza è stata messa un po' in secondo piano, si è privilegiato un'analisi che andasse sul razzismo, sulla condizione la condizione del soggetto coloniale, tanti aspetti che però possono essere meglio colti se inseriti in una visione più generale. Cioè Frantz Fanon riflette sul concetto di violenza, riflette sull'uso di violenza, legittima l'uso della violenza in una riflessione anche rivoluzionaria. Quindi niente, con questo chiudo, lascio la parola a Lorenzo.